mia protella, sorge dall'onde, saggio lo chiedo, non si confonde, né teme audace, né teme audace, audace l'onda del mar, lo che non si confonde né teme audace l'onda del mar. Serve il consiglio di dal forte e della sorte nemica in festa, nemica in festa, ogni periglio sa superar, sa superar. Non si confonde, né teme audace.